Quelle due presentano Desiderando legger. Contrattino e asterisco polisemici. Reading di letteratura lesbica di fine millennio. La difesa di Shora. Breve riassunto. Berenice di Ialite si accomiata da Rhaegar e dai suoi bambini prima di partire per Shora insieme a Merven, Usha e Spinel, il figlio del tagliapietra di Chrysoport. Rhaegar e il Talion si aspettano di ricevere da lei informazioni sulle spartienti e sulla loro comunità nell'intento di programmare un'eventuale invasione del pianeta. Berenice è molto combattuta tra il desiderio di compiacere l'altro protettore e quello di mantenersi fedele alle sue sorelle spartienti. Spinel era insieme al capitano accanto all'oblò oscurato, smarrito in mezzo alla folla di stelle. Adesso Shora era un immenso globo di oceano chiazzato di nubi. Spinel allungò la mano verso di esso fino a quando non incontrò la cupola ricurva, e Shora parve protendersi verso di lui a mano che diventava ancora più grande. Duck disse: «Vedi quelle macchioline verdastre là sotto? È lì che vivono le native tue amiche». Spinella ammiccò più volte. «Su quelle macchioline verdi? Zattere, fringuello, incredibilmente forti, robuste, alcune con legno di zattera ancora vivo e in crescita dopo de centinaia d'anni. Neppure i mercanti riescono a fare di meglio. Adesso atterreremo su una di esse da un minuto all'altro, se questo vecchio uccellaccio riuscirà a farcela». Provando una sensazione di disagio, Spinel spostò i piedi. Capitano, non avrà parecchio da fare tra poco? Con l'atterraggio e tutto il resto. Chi, io? Pensi che mi lascerebbero toccare i comandi? Se lo facessi, farei venire un colpo alla tua signora Ialite. No, io, che io sia dannato se non mi sento più di un portiere che altro su questa servonave. Duck tacque per un attimo. Non è sempre stato così, però. Nel V secolo, qualcuno di più, qualcuno di meno, adesso quello è stato il mio apogeo. Su via, questa è una storia di pesci, borbottò Spinel. Oh no, fringuello, un tempo io pilotavo la nave di Malachite. Al suo servizio, qui su Thor, decenni di anni luce, erano soltanto giorni per me. Spinel sollevò lo sguardo su di lui. Vedi? Ero soltanto un fringuello come te quando il mio mondo natio, fischiò il nome come avrebbe potuto farlo un uccello, venne ridotto in cenere nelle guerre del fratello. Dopo, ebbene, voglio andare il più lontano possibile, quanto me l'avrebbero permesso il tempo e lo spazio. Così scelsi la rotta torrana e la percorsi per secoli, fino a quando non mi mandarono in pensione in questo buco. Le guerre del fratello, ma è stato prima del patriarca. Cosa sei? Uno degli originari? Quegli uomini che vivevano come dei, quel vecchio troll era uno di loro? Duck gonfiò il petto. Proprio così. Io sono un originario, sono più vecchio del patriarca di Thor e vecchio quasi quanto Shora. Ero là quando iniziò la nuova era, quando hanno riunito tutti i pianeti come aragoste in una trappola. Posso dirti cosa intendevi dire con Shora? Sciora era anch'essa una persona, un'originaria? Duck scrollò le scarpe, le spalle. Sciora era una leggenda già all'epoca della mia nascita. Era fuori dalle regolari rotte commerciali. Per i potenti di Thor non valeva la candela. Ma io ti dico una cosa: su 1000 pianeti governati dal patriarca non riuscirai a trovare uno soltanto uguale a Sciora. A queste parole Spinel corrugò la fronte. Finalmente aveva colto. A queste parole Spinel corrugò la fronte. Finalmente aveva colto l'uomo in castagna. Non ci sono tanti mondi nel patriarcato. Le 9 legioni di Thor governano 93 pianeti. L'ho imparato a scuola. Un tempo ce n'erano di più. Oggi 9 su 10 sono grumi di roccia congelata. Alcuni bruciano ancora. Estirpare quelli cattivi, sai? A che altro serve il patriarca? Proprio allora il ponte sobbalzò e spinse i piedi di Spinel come se ci fosse un terremoto. Mentre agitava le braccia e le gambe per mantenere l'equilibrio, la lingua si irrigidì in fondo alla bocca e seppe che sarebbe stato male. «Abbiamo toccato l'atmosfera», gridò il capitano. «Adesso risiediti, allacciati la cintura di sicurezza e spera che il mare non sia troppo mosso quando toccheremo la zattera». Spinel si accasciò sul ponte, con le sue borse da viaggio, accanto all'uscita. Il suo stomaco si era svuotato con violenza, ma provava ancora una sensazione di nausea. Il ponte rimaneva instabile, anche se all'apparenza la nave era atterrata su qualcosa. Comparve uno spiraglio di luce. Una brezza invase la nave, portando con sé la salsedine dell'oceano e un indefinibile odore dolciastro che mescolava le rose agli aranci. Sulla testa di Merven si era appollaiata di nuovo la cliccomosca, emettendo intensi frinii e crepitii. Uscia frinì in risposta, più vivace di quanto Spinel l'avesse mai vista. Spinel chiese con voce flebile: «Dov'è tutto il tuo bagaglio?» «Verrà spedito». La signora Berenice gli passò accanto, sfiorandolo. Le sue mani ben curate erano vuote. Era chiaro che intendeva mantenere il proprio posto al di sopra di lui, ma Merven la trattava con la stessa spontaneità che riservava a lui, senza nessuna particolare differenza, con rispetto, ma nessuna obbedienza. Merven non conosceva la differenza? Su Sciora, oltre a mancare gli uomini, mancavano forse anche i nobili? Di fuori, Merven e Uscia erano già ai piedi della rampa. La cliccomosca girava in cerchio sopra di loro, in preda ad una viva frenesia, emettendo grida sibilanti. Comparso dal nulla, uno sciame di cliccomosche discese ronzando intorno alle spartienti, come le api su un alveare, ma gli insetti non parve loro far alcun male. Mentre Spinel scendeva lungo la rampa, esaminò la superficie sottostante. Il suolo pareva ricoperto da una crosta dura, una specie di tappeto sempreverde, eppure non poteva esserci terra là sotto. Per un istante si sentì mancare i piedi di sotto e si afferrò alla ringhiera fino a quando l'ondeggiare non si acquietò. La terra, che non era terra, si stendeva verso l'esterno. Una camminata di circa 15 minuti, calcolò, laddove si ramificava in tanti canali tutto intorno, disposti a spina di pesce. Al di là di questi, la cintura grigia dell'oceano si dissolveva nel cielo. Mervyn ritornò alla rampa con una leggerezza nel passo e uno sfavillio negli occhi che non aveva mai mostrato su Valedon. Dozzine di cliccomosche erano appollaiate sulle sue braccia o si libravano sopra di lei. «Spartisci il giorno, Spinel, è una giornata splendida», gli gridò mescolando le due lingue. «Senti le cliccomosche, tutte le nostre sorelle, dalle zattere, dagli ammassi intorno a Shora, spartiscono il benvenuto con noi. Vieni, le nostre figlie ci aspettano». «La zattera si muove sempre così?» «Oh, è una buona zattera, robusta, si flette molto bene e spessa molte persone, se la spartiscono i mercanti, vedi?» Indicò con un gesto l'edificio di cemento che si ergeva dietro al ferri. «E la nostra casa zattera è ancora più robusta, due volte più spessa al centro. Il mare chiama la nostra Raya'el. Vieni a casa, Raya'el». Gli strinse le mani e le pieghe a ombrello della sua membrana aderirono in molli alle sue dita. Ai piedi della rampa, le suole delle scarpe incontrarono la crosta dura, simile a un tappeto creata dalla vegetazione. «Ascoltami, fringuello», la voce di Capitan Duck che giò al ferri. «Non troverai questo uccellaccio su Shora quando arriveranno gli inghiottitori. Hai 2 mesi di tempo per tornare». «Grazie, io, insieme a tutti gli altri codardi valani», gli gridò in risposta Berenice, scosse la testa con disprezzo e voltò le spalle. Quell'esplosione di collera, così poco degna di una signora, sorprese Spinel. Si sentì salire il sangue al volto e strinse a sé la borsa da viaggio. «Comunque, grazie, Duck». «Dopo, passa a trovarmi se sopravviverai». Il commiato del capitano fu un arpeggio fischiante. Prima di cambiare idea, Spinel si affrettò ad allontanarsi insieme a Mervyn, la quale pareva ansiosa di raggiungere l'orlo della zattera, laddove prendevano a diramarsi i canali. Il terreno divenne umido e lunghe alghe crescevano disorientatamente sopra di esso. Il terreno venne a mancare del tutto, laddove i rami colossali come sequoia cadute si protendevano al di fuori verso il mare, coperti di ciripiede e di altre creature scagliose. Al rumore dei passi di Mervyn, una buona metà di quelle creature scagliose scivolò giù lungo il fianco. Spinel si ritrasse, ma Mervyn proseguì lungo il ramo, senza mostrarsi per nulla preoccupata. Così lui la seguì, anche se più lentamente. Il profumo misto di rose e aranci divenne più intenso e ben presto comparve la sua origine. Boccioli di tricorni di un giallo brillante che spuntavano dai cespugli che coprivano le ramificazioni laterali e crescevano sempre più folti a mano che proseguiva. Comparve una stretta imbarcazione che si apriva la strada in quel canale fiorito. Dentro di essa si alzarono 3 minuscole figure purpuree. Si misero a saltare su e giù, agitando le braccia, danzando, impazzite, come il vetro fuso sulla fiamma, e l'imbarcazione si inalberò in equilibrio precario. D'un tratto, tutte e 3 le figure si tuffarono fuori dalla barca e in meno d'un istante si arrampicarono sul ramo, ancheggiando, come anatre, poiché i loro piedi, in proporzione alla loro altezza, apparivano ancora più smisurati di quelli degli adulti. Prima circondarono Usha, abbracciandola e cicalando fino a quando Usha non si staccò di dosso la ragazza più grande, spedendola a ormeggiare la barca. Delle altre 2, una gli arrivava all'altezza della cintura e l'altra era proprio una marmocchia. Scambiarono con Mervyn un chiacchierio in toni striduli, tirandole con insistenza la camicia, fino a quando lei non sciolse l'indumento lasciandoselo cadere intorno ai piedi. Adesso erano tutte svestite. Spinel stava bruciando per l'imbarazzo. Non aveva creduto che le spartienti se ne andassero in giro senza niente addosso, più di quanto non aveva creduto che fossero streghe. Lanciò un'occhiata alla signora Berenice dietro di lui, chiedendosi come l'avrebbe presa. Con suo stupore, perfino lei si era sfilata il talare iridiano, la pietra emblematica e tutto il resto, arrotolandolo e facendone un ben ordinato fagotto che si era messo sotto il braccio. Freddamente lei gli restituì l'occhiata come per sfidarlo a tornare di corsa a Luna Ferri. Prima di essere in grado d'un pensiero cosciente, le ragazze conversero su di lui. Le loro braccia guizzarono sopra la sua camicia e cercarono di toccargli i capelli, che dovevano rappresentare una novità per delle fanciulle calve. Dopo un po' Merven le tirò via dicendo in valano: «Su adesso, veia, vellen, Spinel è ancora timido e comunque sapete già com'è il piumaggio valano. Ecco che arriva Flossa, la barca è pronta adesso?» «Spinel, Spinel», le fece eco Vellen, la ragazzina di mezzo. La più anziana, Flossa, diede inizio ad una gara di sputi e tutte e tre squittirono dalle risate. Merven le spinse dentro la barca che Usha stava svuotando dall'acqua, servendosi in modo efficiente delle mani. «Hai visto le figlie del mio utero?» gli chiese Usha con voce orgogliosa. «Sono cresciute così, grandi e forti, mentre mamma e mamma sorella erano via». «E sconsiderate», aggiunse Merven. Nell'udire il suo autonome, Usha si ritrasse e parlò di nuovo in spartiente. Le ragazze si quietarono, si rannecchiarono contengiose sul fondo della barca, limitandosi a lanciare di nascosto occhiate alla creatura valana che si era accucciata con aria infelice accanto alla ringhiera, desiderando più di qualunque altra cosa di non aver mai lasciato la sua casa. Usha e Flossa pagaiavano verso il mare aperto, dove le creste imberrettavano le onde e la barca si sollevava e ricadeva sbattendo sull'acqua. Poi, dal fondo della barca, ebbe inizio il più improbabile suono che Spinel si fosse mai aspettato di udire: un motore elettrico fuori bordo. Spinel si girò, scosse via dagli occhi le ciocche di capelli sbattendo al vento e fissò incredulo la scena. Il motore era un modello standard di Iridis, usato da quei pescatori crisoliti che potevano permetterselo. In nome di Thor, che cosa ci faceva qui, in una barca fatta di una sostanza scintillante che gli era completamente aliena, con la mano palmata di Flossa sulla bara del timone? Non di meno, quell'eco di casa era un dono del cielo, e mentre la barca balzava in avanti, il suo spirito si risollevò speranzoso. Un'ombra si proiettò sulla barca. Sopra le loro teste passò un enorme uccello con un becco da pesce e quattro ali spianate. Vellen si alzò in piedi e gridò qualcosa alla creatura facendo schioccare le dita. L'uccello scese e si librò appena sopra la sua testa. L'apertura delle sue ali faceva apparire minuscola la barca. Spinel si chinò e il vento generato dalle ali gli accarezzò la schiena, che solenne l'uccello riprendesse di nuovo quota. In lontananza un proiettile a forma di pollice schizzò fuori dal mare e un torrente d'acqua tracciò un arco dietro di esso. L'oggetto planò maestoso per un minuto o due finché non rientrò nel mare con uno schianto tonante. Un altro di quegli oggetti uscì sparato dal mare, poi un altro ancora. Doveva essere un intero branco. Le onde raggiunsero ben presto la barca, facendola oscillare in maniera eccessiva. «Sono calamari plananti», l'informò Mervyn. «Vedrai, sono buoni amici da spartire». Spinel scosse la testa. Come avrebbe mai potuto raccontare qualcosa di tutto questo a Crisoport? Neppure sua madre gli avrebbe mai creduto, ancora meno Anne o Melas. Qualcosa non gli dava pace, qualcosa che mancava, ma non sapeva cosa. Se ne sovvenne mentre guardava il mare. Non c'era nessun segno di terra, soltanto il piatto orizzonte. Non c'era di certo sicurezza là fuori in mare aperto, su un'imbarcazione così piccola, e con quali mezzi per navigare? Mervyn, come fate a sapere dove state andando? Voglio dire, avete una bussola o qualcosa del genere? Sì, oggigiorno riceviamo delle bussole dai mercanti, ma le cliccomosche continuano a dircelo. Le cliccomosche sanno tutto. Dovrei imparare a spartire il linguaggio con loro. Il battello continuò a sobbalzare in mezzo alle onde fino a quando non raggiunsero la zattera di Marvin, Raya Hell. Ancora una volta Spinel respirò quel profumo di rose e di aranci mentre la barca seguiva le ramificazioni dei canali dove i fiori sbocciavano con tanta profusione da formare un baldacchino appena sopra le loro teste. Più oltre i fiori tornavano a diradarsi laddove i grandi tronchi piatti si fondevano per unirsi alla zattera. Sopra la zattera si innalzava uno stelo dalle spirali azzurre con i lati concavi che combaciavano come forme di diamante ricurvi allargandosi alla base. Avrebbe potuto essere cristallo di rocca, ma le punte parevano assai fragili. Spinel si azzardò a chiedere a Marvin: «È una specie di fiore gigante?» Flossa si sbellicò dalle risate. Lo tradusse alle sue sorelle che esplosero in altre grida e si lasciarono cadere all'indietro scalciando l'aria con i piedi. Mocciose di troll che non siete altro, Spinel si lanciò contro una di quelle piccole impertinenti che l'avevano fatto infuriare. Veia e Vellen si tuffarono fuori dalla barca e scomparvero mentre Flossa riprendeva in mano le pagaie sempre ridacchiando. Che pesti erano, ancora peggio di Olite. Mervyn rispose: «Quella è la nostra casa». Pareva esile per una casa sul mare. In effetti Spinel notò ben presto che i pannelli inclinati erano fatti di semplice tessuto di seta marina e in qualche modo smaltata. Cosa ne sarebbe stato durante un uragano, per non parlare di quando il mare inghiottiva? Raggiunsero la casa. Uscia toccò un pannello azzurro. Con un fruscio, un foro rotondo si spalancò nel tessuto che si increspò. Dall'interno le spartienti si accalcarono per accoglierli. Le loro voci creavano un brusio come un canto del mare. Persino Mervyn parlava con vivacità e le sue mani si muovevano frullando in tutte le direzioni. Spinel varcò il foro della porta, sentendosi smarrito in quella confusione. L'aria che respirava era densa di odori esotici. Stordito si appoggiò a una parete. Il suo braccio affondò in una pasta pelosa che copriva le pareti e i soffitti inclinati, ardendo di bagliori verdi e ambra, creando un'illusione di movimento che dava le vertigini. La sensazione di stropicciò di quel materiale non faceva altro che aumentare la nausea. Mervyn cercò di spiegargli: «È decorativo. È un fungo, giusto?» chiese rivolta a Berenice. «Un fungo? Sopra ogni cosa?» Si scostò di scatto dalla parete e si stregò freneticamente il braccio. Una volta tanto, apprezzò il modo rigoroso con cui sua madre teneva pulita la casa. «Sì, non è bello. Floss e Vellen hanno mantenuto la pittura. Adesso vieni. Hai molte sorelle da incontrare». I nomi gli uscirono tutti dalla mente, salvo quello della vecchia ama, distesa su un basso divano che ondeggiava lentamente poiché era pieno d'acqua. Le mani di ama erano raggrinzite come gli artigli di un uccello, ma fremettero in un silenzioso saluto. Una coperta di seta marina l'avvolgeva. Le altre invece erano del tutto esposte. Spinel fissò quelle straniere con maggiore baldanza di quanto a suo tempo avesse osato fare con Merven e Uscia. Erano glabre come neonati, persino sotto, e la loro pelle aveva dappertutto la stessa lucentezza, con le grinze appena accennate tipiche della carnagione delle spartienti. In qualche modo si sentì deluso, perché si era aspettato di rimanere eccitato, e invece non lo fu per niente. Nel frattempo Veia e Vellen avevano insinuato le punte delle dita sotto i lembi della sua borsa da viaggio. Spinel le spinse da parte e l'aprì lui stesso. La prima cosa che tirò fuori fu mezzo panino al formaggio. «È il mio pranzo», disse a Vellen, aggiungendo la parola per spartire il cibo. Vellen prese il panino nella membrana fra due dita e gli diede un colpetto con il pollice. Lo annusò con cautela, arricciò il naso e se ne uscì in un violento colpo di tosse. Poi scappò via di corsa, andando presso un grande arbusto che cresceva in fondo alla stanza, e ficcò il panino fra un paio di ampie foglie carnose. Le foglie si chiusero di scatto. Poi Vellen aprì a forza un paio di foglie adiacenti e ne raccolse il contenuto del palmo di una mano. Questa scena lasciò perplesso Spinel, ma il volto della signora Berenice si ammorbidì divertito. Fu la prima volta che le vide perdere il suo nobile portamento. «Vellen pensa che sia ottimo per nutrire le piante», gli disse. «Per la pianta budino. I succhi delle foglie lo digeriranno per qualche giorno e poi diventerà un budino». Vellen gli offrì un campione che pareva una mistura di formaggio fuso e argilla. Cos'era quella roba in origine? Con ogni probabilità interiora di calamaro. D'un tratto Spinel desiderò di aver riempito tutta la sua borsa con gli ortacci di Anne prima di andarsene. Grazie, ma... Infilò di nuovo la mano nella borsa. Ora ecco qualcosa per voi. Una manciata di biglie di quarzo prelevate dal dono di suo padre. Ecco, caddero sul pavimento. Le ragazze sbottarono in un'esclamazione di meraviglia e raccolsero quelle pietre scintillanti, toccandole avidamente prima di passarle ai loro adulti. Le voci si spensero in un mormorio. La loro distrazione fu un sollievo. Spinel sbadigliò e allungò le gambe, abbandonandosi di nuovo contro la parete. Non c'erano sedie, soltanto tappetini sul pavimento. Sentiva che doveva essere mezzanotte, eppure fuori faceva ancora luce. Non gli venne in mente che il fuso orario al quale era abituato fosse irrilevante su Shora. Ancora una volta il foro della porta si spalancò. Un braccio lo oltrepassò, nodoso e muscoloso. Questa spartiente entrò con difficoltà, perché doveva trascinarsi dietro un grande sacco a rete attraverso la stretta apertura. Il sacco conteneva una massa di tentacoli che non smetteva di contorcersi. Piovre, forse, ma ad un impossibile vivido rosso che si muovevano con rapidità molto maggiore di qualunque altra piovra lui avesse mai visto. I becchi si chiudevano di scatto come le chele di un granchio. La nuova venuta si fermò e si rizzò in tutta la sua altezza, sovrastando Spinel di un buon palmo. Le vene le si attorcigliavano sulle gambe come edera e i suoi seni sodi si sollevavano e si abbassavano rapidamente per lo sforzo. La sua figura era come quella di Uscia, ma il suo volto era una versione sorprendentemente fiera di quello di Merven. «Listra!» Merven allargò le braccia. «Madre!» Listra lasciò cadere il sacco e l'abbracciò. Un ottopodo uscì fuori dal sacco, sbattendo il becco. Come riusciva a muoversi con tanta velocità? Veia strillò e Vellen si precipitò a recuperare la creatura, mentre un paio di spartienti adulte trascinavano via il resto della retata. Listra e Merven rimasero abbracciate, ondeggiando leggermente. Poi si separarono quel tanto che bastava per guardarsi e parlare fra loro a bassa voce. Non potevano esserci equivoci sull'emozione che scoccava fra loro, legandole madre e figlia come se non esistesse nessun altro al mondo. Spinel si sentì vagamente geloso. La piccola Veia si avvicinò in punta di piedi e tirò il braccio di Listra. Sollevò una manina chiusa a pugno, riempita con le biglie levigate di Spinel. Dapprima Listra non se ne accorse, poi abbassò incerta lo sguardo, come se fosse perplessa. La sua bocca si aprì, in preda allo shock. Il suo braccio spinse da parte Veia. Le biglie balenarono e schizzarono attraverso la stanza. La piccina urlò e singhiozzò mentre Listra si voltava vedendo Spinel per la prima volta. Una nota aspra le alterò la voce e tutti gli altri si mobilizzarono. Inspiegabilmente la signora Berenice venne avanti e si fermò al fianco di Spinel come per rivendicare la sua affinità di specie. Lei, una signora di Yalite. Spinel guardò Berenice, poi di nuovo Listra, la selvaggia. Listra e quei occhi in quel momento esprimevano furore, come se Spinel fosse un demone evocato da una strega. Per Thor e per tutte le nove legioni, cosa aveva mai fatto? Listra fissò costernata la nuova creatura Valana, che sua madre e sua madre sorella avevano portato a casa. L'essere se ne stava là, fasciato nei cenci del mercante, con la testa come quella di un pesce istrice, la bocca spalancata in un'espressione idiota, e aveva con sé delle pietre, niente di meno. Pietre, proprio in quella casa, fra tutte le case di seta che c'erano. Mervyn le stava stringendo il braccio, supplicandola con severa, implice insistenza. È giovane, ha portato dei doni, non per far del male. Listra si girò di scatto verso di lei. Perché, madre mia, nel nome di ciò che non può venir spartito, perché mai hai portato un maschio anomalo valano proprio a questa porta? Non sopportiamo già abbastanza i mercanti? Che bisogno c'era di aggiungere anche un extra? Questo non è un mercante. Spartirà il sapere con noi. Perché altrimenti avremmo attraversato il cielo per andare sulla luna di pietra? Perché mai, in vero? Ansiosa, Listra studiò sua madre. Dopo la sua missione su Valedon, Mervyn pareva invecchiata di anni. Aveva le guance infossate e nuovi solchi le sottolineavano gli occhi. Persino madre sorella Uscia, la plasmavita, aveva la pelle più scura e i suoi muscoli erano flosci. Listra si sentiva bruciare il cuore nel vedere i suoi genitori invecchiare così in fretta, eppure il dolore che provava per loro e la gioia di riaverli finalmente a casa si mescolavano in modo confuso con l'indignazione che provava alla vista di quella creatura che avevano portato a casa. Inspirò a fondo e trattenne il respiro fino a quando la sua testa non si schiarì. «Madre», disse con calma, «siete andate su Valedon per spartire il giudizio su di loro nel loro ambiente, per giudicare se possono essere umani. Ora, certamente, avrete le vostre risposte». «Sì, in parte, come loro hanno giudicato noi». «Non ascoltare, Uscia, è necessario ben più dei geni per dimostrare che è così», concluse Uscia con voce sorda. «Perché mai pensi che abbiamo passato 2 mesi su quel pianeta seminarridito?» «E abbiamo appena appena raschiato la superficie», aggiunse Mervyn. «Sei ancora giovane, Listra. Sai, domani Nisi prenderà un autonome». Il suo respiro si interruppe di colpo. «Allora perché mai Berenice è tornata da noi scolorita come una medusa asfissiata?» Stava fissando Nisi mentre parlava con sua madre. «Listra», replicò Mervyn, «chi ti ha tirato fuori dall'acqua quando la medusa ti ha spunto? Chi ha intessuto pannelli per la casa giorno e notte dopo la tempesta lo scorso anno?» «Sì», si costrinse a rispondere con un sussurro, «io so tutto questo». Nisi interloquì. «Listra, spartisco i tuoi pensieri. Su Valedon ho fatto quanto di meglio potevo e porto notizie vitali per il concilio. Perlomeno Nisi non aveva perso la lingua delle spartienti. Ma per quanto fosse giovane, Listra sapeva di aver ragione a proposito degli altri Valani, quelli che sciamavano in numero sempre maggiore su Sciora, consumando intere popolazioni di pesci avvelenando le altre, e i mercanti che venivano a spartire in modo seducente subdoli utensili di pietra e di pietra fredda erano più pericolosi di tutti. La pietra era dura come il corallo, ma vuota come la morte. Nessuna presenza vivente plasmava il ferro e il quarzo. Quelle cose crescevano nel fuoco come il corallo cresceva nell'acqua. E per qualcuno il paradosso consumava la mente nel fuoco. Cose come quelle non avevano posto su Sciora. Verso sera le vicine si erano disperse, lasciando soltanto la famiglia di Merven e le apprendiste plasmavita rannicchiate sui loro tappetini nel dormitorio comune. Berenice era troppo esausta, anche soltanto per procedere ad una completa rasatura. Il cuoio capelluto, le braccia e le gambe le pizzicavano ancora a causa della depilazione della sera precedente. Sentiva la mancanza della sua camera da letto personale e dei suoi servomeccanismi e già ardeva dal desiderio dell'abbraccio di Rielgar. Comunque aveva ciò per cui era venuta, il libero oceano, l'aria più pura e l'amore delle sue sorelle che avevano dato alla sua anima un secondo respiro. Tutto era silenzioso, salvo il vento contro la seta marina e le onde che si frangevano sui rami della zattera e una occasionale cricomosca che ancora friniva l'ormai esausta notizia che Merven l'impaziente era davvero tornata sana e salva su Raya Hel insieme ad un maschio anomalo valano che avrebbe potuto rivelarsi umano. Berenice lanciò un'ultima occhiata risentita a Spinel, che si era rannicchiato al suolo avvolto nei suoi indumenti, inconsapevole della crisi di cui si trovava al centro. Era già abbastanza brutto che lei dovesse esibirsi in sua presenza per timore che le spartienti più conservatrici la evitassero. Rielgar sarebbe diventato livido di rabbia se l'avesse scoperto. Adesso avrebbe dovuto difendere il ragazzo nell'interesse delle proprie radici su Valedon. Se avesse negato l'affinità alla sua specie in quel momento cruciale, le spartienti avrebbero potuto aspettarsi che lei recidesse una volta per tutte le proprie radici valane. Non erano mai arrivate a questo fino ad oggi. La sfida di Listra l'aveva scossa. Certamente non avrebbe potuto rimanere purpurea a Iridis, poiché i microscopici simbionti venivano considerati contagiosi. Per le spartienti la questione era delicata, poiché i mercanti e gli altri coloni valani evitavano i microbi aerobici, che sembravano mettere in risalto la loro presunta mancanza di umanità. Durante i 2 mesi trascorsi dalla sua partenza, gli eventi si erano mossi in fretta su Sciora. Il tessuto vivente di Sciora era in gioco e dovunque nel globo le spartienti protestavano chiedendo che la porta venisse chiusa. Questa volta forse neppure Merven sarebbe riuscita a dissuaderle. Domani Berenice avrebbe visto di persona quello che il concilio di Raya Hel aveva in mente e avrebbe offerto i suoi consigli che sarebbero stati disposti ad accettare. Quel Talion, maledetti i suoi antenati, non le era di nessun aiuto, se soltanto la tempesta fosse stata rimandata fino all'arrivo di Malachite. Spinel dormì un sonno agitato. Sognò di essersi perduto in mare, intento disperatamente a fuggire a nuoto davanti ad un inghiottitore, mentre un ritmico tambureggiare di stivali in marcia gli riverberava nella testa. Si risvegliò con un sussulto. Qualcosa si stava dibattendo nella sua borsa da viaggio. Era un pesce corpulento con una brutta mascella e 3 paia di pinne lobate. Al suo grido il pesce scappò via lasciando dietro di sé una scia mucillaginosa. La borsa era ridotta nel più completo disordine, tutto era sparpagliato e reso appiccicoso. Il pane e la frutta che aveva messo da parte per la colazione erano spariti o immangiabili e il suo stomaco vuoto stava già rumoreggiando. Per parecchi minuti maledisse Shora e tutto ciò che era con esso collegato, compresi Merven, colpevole di averlo portato lì, suo padre per non avergli inculcato in tempo un po' di buonsenso e se stesso per essere stato tanto testa di troll da arrampicarsi su quel vecchio albero di retefoglia per spiare le due straniere. Poi cercò di pensare. La luce del giorno splendeva attraverso le fessure praticate nei pannelli più alti e tutti gli altri se n'erano andati. Da fuori giungeva il ritmico battito del telaio a mano di Merven. Uscì fuori a cercarla. Si incamminò lungo il serpeggiante corridoio. Ad un certo punto un catino d'acqua era appeso ad una parete, riempito da un rivolo che scendeva dal fogliame sovrastante. Veia stava raccogliendo da esso l'acqua con le mani pinnate, ma al suo avvicinarsi sgambettò via. Piante che davano acqua alla gente. Spinner riuscì soltanto a scuotere la testa. Alla fine trovò il disco del foro della porta, lo toccò. Era teso come la pelle di un tamburo. Poi d'un tratto si dilatò, come l'iride di un grande occhio azzurro. La luce del sole entrò a fiotti e Spinner strinse gli occhi con forza quando uscì fuori, seguendo il rumore del telaio. Con suo vivo disappunto scoprì che la tessitrice non era Merven, ma la signora Berenice. «Buongiorno, mia signora», disse. «Mi puoi chiamare Nisi?» lei disse. Dal tono della voce fu chiaro che gli ordinava di farlo. «Sì, signora Nisi». «Signora Nisi, un pesce è entrato nella borsa del mio cibo. Non tenere il cibo in giro, salvo che nella dispensa, dove ci sono delle erbe per respingere gli artopesci. Là troverai pronta la colazione». «No, grazie. Niente di quella specie di budino per lui. Merven l'avrebbe ricondotto alla stazione commerciale, dove avrebbe potuto mangiare qualcosa di normale». «Dov'è Merven?» chiese. «Nell'acqua, accanto alla barca a motore». Spinel trovò Merven che nuotava in un canale in mezzo ai rami con la testa che sporgeva sopra la superficie. Si sfilò la camicia e scivolò in acqua. Era calda, come una coperta di seta color turchese. Qualcosa gli mordicchiò le dita dei piedi. Il polso accelerò all'improvviso i suoi battiti, scalciò con forza. Era probabile che fossero soltanto pesciolini. Perlomeno lui lo sperava. E là sotto, chi mai poteva dire quanti chilometri lo separavano dal fondo dell'oceano? Le braccia di Merven facevano turbinare l'acqua. La spartiente gli sorrise, suo malgrado Spinel sorrise in risposta. «Merven, ho fame, un artopesce si è mangiato la mia roba. Mi spiace, non gli disse di andare a fare colazione, capiva?» «Spinel, ti spiace sparpagliare qualche guscio dita?» A quella richiesta Spinel sbatté le palpebre, non volendo rifiutare. Nella barca c'era un sacco pieno di minuscole conchiglie perlacee. Merven si tirò su sopra il fianco della barca per prenderne una manciata che sparpagliò in mezzo alla vegetazione che cresceva sotto il ramo della zattera. Spinel prese alcune conchiglie, ma non appena la sua mano rientrò in acqua, dei vermetti rossi guizzarono fuori dalle conchiglie e lui si affrettò a lasciarle andare. Ogni conchiglia con il suo branco di vermetti schizzò via in una direzione diversa e ben presto si sparsero tutte fra gli steli di corallo che si allungavano dal ventre del ramo, sfilando sotto di lui mentre nuotava. Pesci baffuti passarono davanti al corallo. Poi un grumo di fango e conchiglie infrante si animò ghermendone uno e lacerandolo con le sue chele. E dovunque, spuntando da piccole nicchie in mezzo al corallo, penzolavano filamenti di seta marina che parevano pulsare al ritmo di un invisibile batterista, addentrandosi in profondità fra i rami più sottili, che si protendevano dal tronco principale, giù fino a dove Spinner riusciva ad arrivare con lo sguardo. Una foresta rovesciata. Merven stava ancora spargendo conchiglie. «Ascolta, Merven, perché fai questo?» «Le gusciodita mangiano i parassiti che devastano le setalghe quando queste proliferano troppo». «Ma allora perché non spruzzate la zattera con qualcosa che elimini i parassiti?» «Perché la seta marina soffocherebbe la zattera e le gusciodita non avrebbero di che sfamarsi e i tubovermi morirebbero avvelenati. Poi i pesci e le piovre non avrebbero più niente. E che cosa mangerebbero le spartienti?» «E che cosa dovrei mangiare io? Senti, insiste, devo tornare alla stazione commerciale, altrimenti qua fuori morirò di fame». «Molto bene», rispose Merven, cominciando ad allontanarsi a nuoto. «L'Istra ti ci porterà questo pomeriggio». «L'Istra, non lei!» Quell'orrida creatura aveva buttato via le pietre che lui aveva portato in dono e lo aveva guardato come se avesse avuto l'intenzione di assassinarlo. «L'Istra va sempre dai mercanti, per prendere utensili metallici e perfino cristalli di fuoco». «Ma l'Istra mi odia! Non ti conosce ancora abbastanza bene per odiarti». Merven fece una pausa. «L'Istra conosce bene i mercanti. Porterà con sé abbastanza seta marina da poterla scambiare con il tuo cibo». Spinel non aveva pensato a questo. Per la sopravvivenza lui dipendeva per intero dalle sue ospiti spartienti. Ma era sicuro che Listra avrebbe preferito vederlo morire di fame. Imbronciato, schiaffeggiò l'acqua con le mani. Perché mai Listra si dà la pena di trattare con i mercanti se li odia tanto? Anche i mercanti sono umani, disse Mervyn. Andrebbero benissimo se diventassero autobattezzati. E che cos'è un autobattezzato? Chiese Spinel. Vieni, te lo farò vedere. Mervyn si tirò su dal ramo. Spinel la seguì. Osservò le sue mammelle che ondeggiavano mentre si fermava. Mervyn gli indicò l'acqua. Cos'è che vedi là? Spinel guardò. Il mare, nient'altro. Guarda meglio. Vedo dei pesci, moltissimi pesci piccoli, e torri di corallo. Sulla superficie chiazze di luce fluttuavano e scorrevano via veloci. E vedo me stesso riflesso nell'acqua, aggiunse con voce impertinente. Bene, e che cos'altro? E che altro c'è? Esclamò Spinel. Io non sono bravo con gli indovinelli, non so niente. Quando andavo a scuola tutto quello che facevo era sognare i mosaici sulla parete. Non imparerò mai ad essere un giudice. Perché non mi rimandi a casa? Una creatura inferiore vede nell'acqua il suo rivale e balza dentro per combatterlo. Una creatura umana vede se stessa e sa che il mare la battezza. Ma un'autobattezzata vede ogni umano che c'è mai stato o che ci sarà ed ogni forma di vita che c'è. Battezzando se stessa diventa una protettrice di Shora. Un protettore? Vuoi dire tutti? Rimase colpito dalla bizzarra logica della cosa. Senza nessun nobile o plebeo tutti diventavano autoprotettore. Decise che Capitan Duck aveva ragione. Anche se ci fossero stati 10.000 mondi abitati, non ne avrebbe trovato uno solo ridicolo come quello. Nel corridoio della casa di seta, un membro della casata che lui non conosceva stava raschiando qualcosa dal pavimento. Pareva la scia lasciata dall'artopesce, adesso diventata dura come la plastica. Spinel scrollò le spalle con filosofia e andò in dispensa. Forse avrebbe trovato qualcosa per tenere a bada la fame. La dispensa, una stanza dalla forma irregolare come qualunque altra, era piena di scodelle e cucchiai e piatti lucidi e levigati che parevano più simili a lenti di vetro. Vellen stava ammucchiando le scodelle mentre Veia era seduta su un tappetino davanti ad un piatto fondo e mandava giù cucchiaiate di quel nauseante budino. Veia imboccava anche Ama, la nonna, la quale appariva molto debole, quasi paralizzata. Spinel si limitò a contemplare la scena. Non aveva abbastanza fame per mangiare quella roba. Quando ebbe finito con Ama, Veia spinse la scodella verso di lui. Poi afferrò una scopa e cominciò a spazzare il pavimento. In qualche modo però i suoi piedi continuavano ad incespicare fra loro non appena fissava la sua attenzione sulla scopa, fino a quando sua sorella non gliela tolse per finire il lavoro. Spinel rise e le fece marameo. All'istante le bambine si sedettero entrambe sul pavimento, voltandogli la schiena. Stupefatto, Spinel guardò le due piccole schiene rotonde sbattendo gli occhi. Un silenzioso rimprovero. «Beh, non fate quei musi se non sapete stare al gioco». Uscì sbattendo i piedi. Ripercorse i suoi passi e picchiò la mano sul foro della porta per uscire. A pochi passi di distanza c'era Listra. Spinel si arrestò di colpo, preparandosi a scappare. Ma Listra non l'aveva visto, oppure aveva deciso di non farlo. Le ombre si increspavano sui muscoli dei polpacci e delle braccia e sotto i suoi seni sodi. Il suo fisico era magnifico. Un lottatore non avrebbe potuto apparire migliore. E stando alle esperienze di Spinel, di solito la gente che ostentava quell'aspetto aveva anche l'abitudine di farne uso. Listra era impegnata con le cliccomosche che si libravano davanti a lei. Le loro mandibole sbilenche raschiavano, emettendo squittii e scoppiettii. Alcune di esse si dondolavano. Alcune di esse si dondolavano attraverso una specie di recinto fatto di una sottilissima maglia nera, simile ad una ragnatela che prima non c'era stato. Guarda, Valano, lei decise infine di dirgli, È una lettera arrivata dall'altra parte del mare. Listra parlava bene la lingua. Faresti bene a prestare attenzione al suo messaggio. Spinel si avvicinò a Guardingo. La ragnatela formava un disegno affascinante, ma non riuscì a trarne nessun significato. Il volto di Listra era un po' più duro di quanto gli sarebbe piaciuto, ma c'era il fantasma degli occhi e degli zigomi di Mervyn in lei, e le sue guance erano prive di rughe. Non poteva essere molto più vecchia di lui. Spinel sollevò il mento. Cosa intendi una lettera? Lei gli indicò le clicomosche. Tessono le loro notizie in modo che tutti possano leggerle. Nell'ottavo galattico, terzo ammasso, sistema Van Helion, molte creature stavano morendo. I calamari plananti, portati sulle zattere dalle onde, gli stellavermi che galleggiavano con il ventre ingrigito e gonfio, perfino gli spettroscoss erano scomparsi da sotto le zattere. E qual era la causa? Le tue sorelle Valane, è evidente, che scaricavano i loro veleni in mare. Ma una plasmavita di Van Helion ha rimediato alla cosa. Ha sparpagliato una muffa viscosa che è cresciuta su tutti i battelli da pesca Valani. E adesso gli avidi pescatori se ne sono andati da Van Helion. Listra lo fissò in attesa di una sua reazione. E questo che cosa ha a che fare con me? Tutto, Valano, tutto. Sei già in lega con i mercanti, l'ho detto a Mervyn. Così hai fame, vero? Sistemerò la cosa. Ti darò da mangiare allo stellaverme. Spinel fece un passo indietro, poi ebbe la furibonda sensazione di essere stato preso in giro. Testa di troll, borbottò Listra. Ti darò da mangiare dopo aver dato da mangiare allo stellaverme, vieni? Fece per voltarsi. No, esplose Spinel. Se non vuoi avere a che fare con me, allora per Thor non voglio avere niente da te. Tese le gambe e si piantò i pugni sui fianchi. Listra sbatté gli occhi alcune volte, come per risolvere un indovinello. Ben detto, Valano. È un peccato che tante altre tue sorelle non siano d'accordo. Forse hai un po' di cervello sotto quella tua pelliccia. Si incamminò giù verso l'acqua. Vieni, Valano. Mervyn si seccherà se non lo farai. Spinel non aveva nessuna scelta se voleva mangiare. Com'era possibile che Mervyn gli facesse una cosa del genere? Listra si tuffò nel mare, veloce come un lampo. Spinel la seguì e le sue gambe raschiarono contro un ramo sommerso. Riemerse in superficie, annaspando. Le gambe gli bruciavano un po'. Poi, con maggiore cautela, cercò di stare dietro a Listra, mentre sfrecciava in mezzo a quel dedalo di canali. I banchi di pesce si sparpagliavano davanti a loro come una pioggia di gioielli. Meduse opalescenti si profilarono davanti a lui e fece una brusca deviazione per evitarle. Dov'era andata adesso quell'impossibile spartiente? Spinel si fermò in superficie per riprendere il fiato, sbattendo lentamente i piedi. Una testa spuntò vicino a lui. «Cosa aspetti?» esclamò Listra. «Vieni giù!» La paura lo afferrò. C'era qualcosa di sbagliato. Allungò un braccio con un movimento convulso per aggrapparsi ad un ramo e i cirripedi gli raschiarono il palmo della mano. «Non sai nuotare?» constatò Listra, come se stesse parlando fra sé. «Sì che so!» urlò lui. «Posso nuotare fino a capo osso di troll e oltre!» Listra tolse il braccio con un gesto fulmineo e lo tirò sotto verso quell'azzurrognola oscurità. «Mi affoga!» urlò la sua mente. Cercò di liberarsi dall'artiglio che gli stritolava il polso e torse il proprio braccio fino a quando non fu quasi sul punto di spezzarsi. Ma niente poteva rallentare quella discesa implacabile che diventava sempre più rapida ogni volta che Listra scalciava con le sue gambe possenti. Inesorabile, la morsa dell'acqua serrava il petto di Spinel. Da un momento all'altro la sua vita si sarebbe riversata fuori in un fiotto di schiuma. Inspiegabilmente l'aria esplose tutto intorno a lui. Spinel si sentì soffocare e sbatté le braccia sollevando spruzzi e i tonfi echeggiarono cavernosi. Il suo braccio colpì qualcosa con forza. Il tetto di una capanna trasparente di vetro che racchiudeva abbastanza spazio per lui e per Listra, consentendo loro di sguazzare nell'acqua sottostante. Listra galleggiava. Il palmo delle sue mani planava, descrivendo pigro dei cerchi. Aspettò che il suo respiro rallentasse, fino a ridiventare normale. Poi si girò verso una rastrelliera di utensili che si trovava dentro la campana. «Bene», disse, affibbiandosi alla vita una cintura di attrezzi. «Rimani qui fino a che non avrò dato da mangiare allo stellaverme». Sgusciò fuori dalla campana e schizzò via, planando dentro e fuori le ombre proiettate dai grandi rami più in alto. Una distesa verde si allungava davanti all'Istra, vasta forse quanto una piazza del mercato. Delle minuscole spartienti si libravano davanti alla bocca dell'immensa creatura dalla quale spuntava una formazione radiale di peduncoli dalle estremità bulbose. Il corpo era legato ai rami sovrastanti da ormeggi filiformi, salvo per la cosa che si agitava poderosamente vomitando un getto bianco che tracciava una linea curva ondeggiante. Spinel contemplò la bestia sgomento. Poteva trattarsi di un inghiottitore? Lo Stella Verme non era un inghiottitore, apparteneva ad una specie inferiore di cefaloglobinidi. Si nutriva di plancton e di piccoli pesci filtrati dall'acqua di mare, che veniva costantemente pompata attraverso le sue budella. Il getto emesso dalle budella di una ventina di Stella Vermi era in grado di propellere una zattera con una spinta continua e regolabile, quel tanto che bastava tenere insieme un sistema di 8 zattere, guidandole in mezzo alle correnti senza che deviassero troppo verso il polo. Legare gli Stella Vermi e pilotarli, pulire i filtri della loro bocca e allevare la loro prole, questo era il lavoro di Listra e delle sue sorelle guidavermi. Quando Listra si avvicinò, due guidavermi si giravano in cerchio sopra i peduncoli ondeggianti della bocca dello Stella Verme. Elongui, la timorosa, aveva all'incirca la stessa età di Listra, ma Ginevra l'implacabile era la guidavermi più anziana, responsabile di tutti e 20 gli Stella Vermi. Ginevra fece una smorfia e sollevò una mano accusatrice per chiedere come mai tanto in ritardo oggi Listra. L'osservazione lasciò l'amaro in bocca a Listra. Era stata la creatura valana che a malapena riusciva a nuotare e a rallentarla. Misericordia volle che Ginevra non si fermasse per interrogarla a fuoco lento. Era pallida per mancanza di ossigeno, così filò verso la campana d'aria dove era stato lasciato Spinel. Listra era in ritardo per l'ora dello spartir lontano, l'invio delle notizie tramite il canto dello Stella Verme. Lo Stella Verme produceva la sua canzone con onde sonore a bassa frequenza, da dentro le sue turbinanti budella. Il canto poteva venire modellato e diretto in modo da inviare notizie nel giro di poche ore tutto intorno al globo. Adesso, stando alle clicomosche segnatempo, per Raya El era l'ora dello spartir lontano. Elongui aveva già preparato un'esca speciale, un calamaro rosso di discrete dimensioni, all'estremità di un paletto uncinato. Prudente Listra si teneva fuori dalla portata dei suoi tentacoli. Elongui le porse un altro paletto. Listra lo afferrò e insieme manovrarono il calamaro dentro il vortice traditore creato dalla mascella dello Stella Verme. Quell'improvviso, voluminoso boccone ridusse il pompaggio ad un rivolo mentre il bestione faceva una pausa per digerirlo. Adesso Listra poteva nuotare senza pericolo fino al labbro, almeno per qualche minuto. Mentre si avvicinava, distolse gli occhi dalla pulsante galleria all'interno delle fauci della creatura. Lo fece in maniera quasi furtiva, pressappoco allo stesso modo in cui evitava certe gallerie mentali del suo passato e del suo futuro. Bandì quel pensiero dalla sua mente e afferrò uno dei peduncoli radiali della stella che orlava la bocca. Affondò i piedi dentro la valle fra i due peduncoli e si stabilizzò. Più oltre, al di là della pelle del bestione, in mezzo all'incrociarsi dei cavi che lo imbrigliavano saldamente alla zattera, danzavano e tremolavano raggi di luce. Oggi quei cavi fatti di fredda pietra venivano loro forniti dal mercante, ricordò Listra con amarezza. Se fosse stato per lei, però. Adesso basta, doveva essere pronta per l'istradatore mentale, lo strumento che avrebbe dato allo Stella Verme la modulazione dei gemiti che avrebbe dovuto emettere. Elongui aveva l'instradatore? No. Elongui si stava sbiancando a mano che i microbi aerobici consumavano il loro ossigeno, così nuotò fino alla campana. Adesso la gravidanza di Elongui era visibile dalla morbida rotondità del suo ventre. Un altro paio di mesi e il concilio avrebbe provveduto a farla riposare per un po'. Ginevra si avvicinò allo Stella Verme. Dalla sua mano penzolavano le nere dita arricciate dell'instradatore. Il mento di Ginevra sporgeva critico, ma Listra l'avrebbe fatto nella maniera giusta. Prese l'instradatore e sistemò le sue appendici dietro un peduncolo radiale, appena sopra un corretto nodo neurale. L'instradatore avrebbe liberato una sequenza sincronizzata di ormoni secondo un semplice codice. Ne sarebbero risultati dei messaggi semplici. Mervyn l'impaziente a casa, sana e salva con bimba valana. Ceppo Ler spedito a Ayalel. Si trattava di un ceppo fungoide per curare un'epidemia di febbre letale. Usha aveva messo a punto la cura e spedito un campione a mezzo clicomosca alla plasmavita di Ayalel. E alla fine da ripetere due volte: motobarche soffocano canzone Stella Verme, smettere uso. Da tempo Ginevra sospettava che i motori valani causassero l'inquietante aumento del rumore oceanico, il quale talvolta accorciava la portata della trasmissione a sole poche centinaia di chilometri. Adesso ne era sicura e neppure Mervyn aveva una risposta a quel problema. Le appendici neve dell'instradatore mentale si erano insediate e i loro ormoni avrebbero avuto effetto nel giro di mezz'ora. Tutte avrebbero dovuto riemergere prima di allora, poiché il canto dello Stella Verme, anche se al di sotto della frequenza dell'udito umano, era così intenso sott'acqua che la sua potenza poteva uccidere. Così Listra andò alla campana per una rapida boccata d'aria, prese Spinel e lo condusse in fretta su, fino ad un ramo della zattera, prima che il suo miserevole fiato venisse a mancargli. In un istante Ginevra comparve al suo fianco. Le sue palpebre interne si ritrassero. liberando il furore accumulato nei suoi occhi. Il suo piede raccolse dell'acqua e la schizzò contro l'istra. «Perché così tardi oggi? Tu non arrivi mai tardi. Sai che non è giusto nei confronti delle altre zattere se superiamo il nostro tempo. Sai che devo andare al concilio. E perché hai portato quell'inutile creatura Valana? Perché consumasse tutta l'aria della campana?» Di proposito, Ginevra voltava la schiena a Spinel. Rughe sottili le attraversavano la pelle del cranio, anche se aveva ancora il petto e le braccia di una veterana guidavermi. Ginevra l'implacabile era ancora più sicura sui Valani di quanto lo fosse l'istra, ed era più vecchia di Merven. «Mi spiace per l'aria della campana. I pneumatofori che vi crescevano potevano riprodurre l'aria ad una determinata velocità soltanto, ma dovevo impedirgli di fare danni», aggiunse l'istra. «Stiamo per andare dal mercante, pensavo che ti potesse interessare dargli un'occhiata dopo tutto il chiasso che è stato fatto. Un tappeto tutt'ossa, non è vero? Merven crede davvero che io possa provare pietà per lui e dimenticare come i mercanti abbiano fatto impazzire mia figlia?» L'istra divenne insensibile, non voleva pensare alla figlia di Ginevra. «Sì», proseguì Ginevra, «conosco bene tua madre. Quando prenderai un altro nome ti unirai al concilio, l'istra. Tu, fra tutte le sorelle, aggiungerai peso alle chiudi di porta.» «No, no, non sono pronta. Non chiedermene il perché», l'implorò in silenzio. Ginevra lo osservò, torcendo lentamente la bocca. «Bene, allora. Quando visiterai il mercante, lasciagli spartire 10 lunghezze di cavo. Parecchi ormeggi degli Ostellaverme hanno bisogno di riparazioni.» L'istra ne fu sgomenta. «Così presto? L'ultima volta ha chiesto un'intera barca di seta marina. Porta delle medicine, allora. Uscia è quella che le fa meglio.» L'istra arrossì a quell'encomio rivolto alla madre sorella. Uscia è ritornata a casa, sottile come un algo seta. In ogni caso lavora tanto che è ormai ridotta all'osso. Se adesso lo Ostellaverme dovesse liberarsi, andremo alla deriva fino a quando... Per Sciora, no, no. Nel giro di 2 mesi, prima che avesse inizio l'inverno, gli inghiottitori avrebbero dato il via alla loro migrazione verso sud. Un fitto anello di vortici famelici avrebbe spazzato l'intero globo da un polo all'altro. Ai tropici l'anello si sarebbe assottigliato al massimo, ed era là che Raiael doveva rimanere. Allora cattura uno spettro scossa. I tendini dello spettro scossa hanno tenuto saldo uno Ostellaverme per millenni prima dell'arrivo dei mercanti. «Gli spettroscossa spartivano un tributo più duro», rispose l'istra. «La cicatrice sulla pelle del cranio di sua madre era stata lanciata da uno spettroscossa, anche se Merven non aveva mai spartito i particolari dell'accaduto con l'istra. Un evento sul quale Merven non riusciva ad intessere parole doveva essere davvero indicibile.» Ginevra strinse il mento di l'istra, sporgendo il proprio fin quasi a sfiorarlo. «Ragazza mia, hai detto no 5 volte in altrettanti minuti e in altrettante direzioni. È soltanto a questo che servono i giovani al giorno d'oggi? Quando per Sciora verrà il momento di scegliere, soltanto 2 correnti scorreranno: chiudere la porta o morire.» Siamo giunti anche questa sera alla fine di questi capitoli della difesa di Sciora. Nancy, Rosina e Elisa al mixer vi salutano. Vi auguriamo naturalmente una buona fine di questo 2015. Ti vuoi unire, Rosina? Certamente, buone feste laiche per tutte e tutti. Naturalmente, laicissime. Faremo anche noi il nostro giubileo, già l'abbiamo detto all'inizio, e quindi ci sentiremo nel 2016. Vi ringraziamo ancora e buon proseguimento di serata. Grazie a tutte. and mountains make me nauseous. I like to look up wild at an infinite sky, a twinkling with diamonds. It's true, I get depressed in fancy hotel rooms, undressed with nothing to draw but my loneliness, thinking of the night song of your hair, premature as evening falls to cars to me, interrupted by the sirens in the street. Sharks, but not the